Benvenuti, ben sintonizzati, ben sintonizzate. Giovedì 22 giugno, sono le 15:01, puntualissimi come sempre. In affanno. Inizia Tracce di cinema. Oggi, Fede, che bel film. Guarda, io non l'ho visto, però l'ho visto adesso per la prima volta. Ho scoperto che era uscito alla. Che è arrivato qua da noi, ha vinto il Festival del Cinema di Roma. Non avevo sentito parlare per niente. Io proprio lì lo vidi. Bello, mi è piaciuto un sacco. This is England, questo è il titolo. Un film del 2006, è arrivato con 4 anni di ritardo qua da noi. Lo sapevi, Fede? No, questo non lo sapevo. Sì, era uscito 4 anni prima in Inghilterra e quindi è arrivato vecchio di 4 anni da noi, perché il regista Shane Meadows non ha avuto mai grande successo nel nostro paese. Qui è uscito soltanto uno dei suoi 4 film, ecco, non è che abbia poi lavorato così tanto, insomma, però è un degno. Che? Cerco l'acqua, ho sete. Adesso. È un buon regista come Ken Loach, come insomma altri suoi colleghi importanti inglese, anche perché insomma ha portato sempre come oggetto, come soggetto dei suoi film la società, molto spesso la classe operaia e i lavoratori e appunto i problemi sociali del suo paese. Così ha fatto anche in questo film This is England, che come dicevo è un film del 2006, ma è molto attuale nella sua storia, nelle sue tematiche, perché parla di un disagio sociale che si ebbe in epoca thatcheriana in Inghilterra, e che vedeva la nascita del fronte skinhead di estrema destra. Questa è più o meno la storia, e la colonna sonora è bellissima, curata da un grande autore, Ludovico Einaudi, e noi abbiamo pensato proprio di aprire la puntata con uno dei pezzi che sono all'interno di questo soundtrack davvero molto molto belli. Dalla colonna sonora di This is England di Shane Meadows, questa era Ludovico Einaudi con Oltremare. Vogliamo ripetere quello che ci stavamo dicendo, sì, fuori onda? Sì, sì, sì, sicuramente da queste parti, insomma, tra Cericinema sono passati tanti compositori, tanti autori di colonne sonore, e devo dire che ascoltando abbastanza attentamente la colonna sonora curata appunto da Ludovico Einaudi di questo film, io sono rimasta molto colpita, perché tra tutti, insomma, che abbiamo conosciuto e che abbiamo ascoltato, sicuramente questo Fede, questo autore di colonne sonore, questo grande pianista e compositore, è il mio preferito. E poi con queste due signore cuffie con cui stiamo sentendo la trasmissione, sì, sì. Piacere. È proprio un piacere. Due parole per su questo grandissimo musicista, che è nato, che si è formato al Conservatorio Giuseppe Verdi, mo mi sono persa la pagina, Federico. Classe 1955, torinese comunque, possiamo intanto dire. Sì, torinese, eccolo. Compositore appunto e pianista di grande successo internazionale, ha fondato la sua musica che ha radici sia classiche ma anche molto contemporanee, perché ha composto tantissimi pezzi di musica elettronica, quindi ha spaziato molto nel tra i generi musicali. È nato a Torino, come dicevi tu, nel 1955, e il suo album Le onde, così dicono i critici, rappresenta il punto di svolta nella sua carriera, e poi tantissime altre opere ha composto, e una serie di concerti dal 2003 che hanno caratterizzati dal tutto esaurito un po' ovunque. È stato anche, ha suonato anche alla Scala di Milano. Ha firmato un album con la Decca nel 2004, che è arrivato nella prima parte della classifica britannica, e ci è restato per un sacco di tempo. Ha suonato nei maggiori teatri del mondo, appunto la Scala di Milano, il Barbican di Londra, la Philharmonic Hall di Liverpool, il Trianon di Parigi e la Philharmonie di Berlino, e ha venduto più di 750.000 dischi in tutta Europa, un grandissimo veramente. Ha composto le colonne sonore di tantissimi film e trailer, tra cui Quasi Amici e Joaquin Phoenix, Io sono qui, la miniserie Dottor Zivago e Acquario nel 1996, In a Time Lapse, Taranta Project, un album collaborativo, e poi insomma tanti altri lavori, e ha composto appunto la colonna sonora anche del nostro film This is England, in cui c'è veramente tanta musica, quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere. E proviamo anche a contattarlo, magari chissà, riusciremo a ospitarlo. Sarebbe un grande onore. Chissà mai. donkey. To the dog. Don't be a jerk. To the dog. What do you work for? Do the Dog nella versione degli Specials, che sono sempre un piacere da ascoltare. Sì, sì, poi gli Specials insomma hanno una bella storia, sono nati a Coventry agli inizi del 1979, una città che a quei tempi era oppressa da degrado, disoccupazione, scontri razziali. Il gruppo degli Specials era esplicitamente antirazzista, hanno iniziato a suonare facendo una serie di cover rock e reggae, hanno poi recuperato lo ska ed erano appunto specialmente antirazzisti perché due membri sono neri, la musica è un misto di elementi bianchi, il punk e giamaicani, lo ska e il reggae, e pensa che il logo della loro etichetta era una scacchiera, sì. Hanno avuto grandissimo grandissimo successo anche perché hanno saputo aggregare tante insomma di tante parti della società diverse in un periodo appunto in cui c'erano grandi contrasti, e sono stati molto amati finché poi il gruppo si è scisso per problemi di lotte interne, insomma non andavano più d'accordo, e però nel 2008 si è parlato di una reunion che però non è mai avvenuta, ai noi. Invece, a proposito di questo film, la cui headline che compare nella locandina originale è Run with the crowd, stand alone, you decide, cioè corri con insieme agli altri ma stai da solo e tu puoi decidere, sei tu che devi decidere. Proprio Meadows sceglie prepotentemente proprio di raccontare la potenza del libero arbitrio in questa storia, che non è un romanzo ma è una storia vera, perché è ispirata alla vita di questo regista. Appunto racconta gli anni 80 in Inghilterra, in cui il movimento skinhead non aveva ancora ottenuto una connotazione politica legata alle frange estreme della destra, e anzi era un movimento multirazziale che è influenzato anche dal reggae, dalla musica reggae e rocksteady. Sì, sì, e più delle volte ne facevano parte immigrati dalla Giamaica e poi alla fine degli anni 70 iniziò ad avere un connotato sociale e politico razzista, come insomma come si sa, però ecco, in realtà in origine non era così. Parlavo di biografia, autobiografico, perché è proprio un'esperienza che il regista ha avuto in merito da bambino, di essere come il nostro protagonista, il piccolo Sean, bravissimo, l'attore che interpreta questo bambinetto inglese che entra a far parte di questo gruppo di skinhead. Era stato vessato a scuola e quindi aveva molto sofferto, e poi aveva fatto anche un paio di scelte un po' sbagliate, ma poi era ritornato sui suoi passi. Così è stato anche per il protagonista del film. Be a fool again for a girl with a roof in eye. Hey! Ah, you're too much. You're too much. Jimmy Cliff, Let's Dance, mia cara Ottavia. Eh sì, Jimmy Cliff, che dobbiamo dire di Jimmy Cliff? Nato nel 1948 a District St. James, Jamaica, inizia a scrivere canzoni giovanissime quando nel 1962 si trasferisce a Kingston per proseguire gli studi, convince un ristoratore locale, Leslie Kong, a improvvisarsi discografico e pubblica i primi 45 giri, alcuni dei quali diventano dei successi solo a livello locale. Nel 1964 il boss della Island, Chris Blackwell, che l'ha visto esibirsi alla Fiera Mondiale di New York, lo convince a emigrare e lo mette sotto contratto pubblicando i suoi primi album, che sono Wonderful World, Beautiful People e Vietnam. Quest'ultimo è un primo e fulgito esempio di un impegno civile e politico che Cliff conserverà nell'arco di tutta la sua produzione. Si guadagna anche le lodi di Bob Dylan, che la definisce la miglior canzone di protesta da lui mai ascoltata. Dopo una cover di Wild World di Cat Stevens, Jimmy conosce il maggior successo della carriera grazie a The Harder They Come, film girato in Giamaica da Perry Enzel. L'abbiamo pure parlato, sì, cosa, vero? L'abbiamo avuto insieme ad Attica Blues, sì. I due film giamaicani. Allora, non mi ricordo, sì, male, sì. Dopo un viaggio in Africa, Jimmy si converte all'islamismo, ma non abbandona mai la musica, e negli anni 80 non resta neanche insensibile alla disco music, e insomma poi continua la sua carriera, e insomma il resto si sa. Yeah. Warhead testata, come abbiamo orora visto, per UK Subs. Capocciata. Sì, UK Subs, gruppo longevo, gruppo punk inglese che si è formato nel 1976, longevo perché sono ancora in attività, Fede, però a Roma pure hanno suonato diverse volte. La formazione è cambiata tantissimo, l'unico che è rimasto, l'unico membro rimasto dall'inizio è Charlie Harper, e poi nella loro carriera si sono stati accompagnatori, come si dice? Band di supporto, no? Mm-hmm. Gruppo di supporto di tanti artisti, tra cui Ramones, i Misfits, i Police e molti, molti, molti altri. Vorrei spendere due parole su questo regista, Meadows, Fede. Mi piace molto la sua storia personale e la sua storia cinematografica. Però prima ci sentiamo un altro pezzo, che dici? Io d'accordissimo. Dai. L'arcinota dei Soft Cell, e ho scoperto anche l'originale, me la sono andata a sentire un po' di tempo fa, non sapevo, com'è? Io l'ho sempre immaginata come la loro, invece no, a parecchi anni, credo decenni. Questa però è sicuramente la versione più bella che ho mai sentito, perché ce ne sono diverse. Sì, me la devo sentire. Te la devi sentire, sì. Ma tu dici quella composta da Ed Cobb? Esatto, Eddie del Cobb. 1964? Esattamente, Eddie Cobb. Ah sì, è proprio diversa? Sì, beh sì. Beh, allora me la vado a sentire. Beh, questo sì, questo è un pezzo snotissimo dei Soft Cell, duo britannico di musica elettronica dei primi anni 80 che... insomma è stato un po' una meteora, no, Fede? Sì. E sì, invece il nostro regista, ecco, ne vorrei parlare un pochino, perché Shane Meadows è bravo, questo film è un bellissimo film, è un piccolo gioiello secondo me, un piccolo capolavoro del cinema indipendente made in UK. Ha vinto premi un po' ovunque, abbiamo detto prima che il premio speciale della giuria al Festival Internazionale del Film di Roma, è stato presentato al Toronto International Film Festival e ha vinto anche altri premi internazionali. Shane Meadows ha stranamente, come appunto ho anche anticipato poco fa, è un regista un po' snobbato qua in Italia, nonostante insomma sia un autore di tutto rispetto, però non sono uscite i suoi lavori qua. Moltissimi, come moltissimi altri registi, ha basato anche lui i soggetti dei suoi film sulle sue esperienze personali, ha preso ispirazione dalla sua vita. È nato in Inghilterra, come dicevo, cresciuto nella cittadina di Uttaxter, Staffordshire, nelle Midlands, classe 1972. A partire dagli anni 90 ha riversato nei suoi lavori frammenti di memoria, raccontando storie, dipingendo personaggi proprio da lui conosciuti. I suoi due film più importanti, This is England e Dead Man's Shoes, sono proprio ispirati alla sua vita. Non solo lui racconta nei suoi film ciò che probabilmente gli è capitato e che lo ha segnato durante nel film di cui stiamo parlando oggi, This is England, durante la sua adolescenza, ma è anche un bravo storico Meadows, perché fa dei ritratti molto precisi dei periodi che descrive. Mm-hmm. C'è tanta politica nei suoi film, la cultura, la vita sociale del periodo, quindi non sono soltanto film che riguardano la sua formazione, le sue esperienze, ma sono proprio a mio avviso dei ritratti molto precisi e molto ben fatti dell'Inghilterra. A proposito di questo, del film di cui parliamo oggi, di cui stiamo ascoltando la colonna sonora, lui ha raccontato che appunto si è ispirato a ciò che gli era capitato. A 11-12 anni, ha ricordato il regista, ero proprio come Sean, ero un nessuno, a scuola mi ritrovo sempre alla fine della fila, avevo questi capelli arruffati a scodella e poi ci fu la trasformazione. La sua fascinazione per la personalità che irradiavano gli skinhead nel centro commerciale di Uttaxter era tale che il desiderio di far parte di quella gang fu molto forte. Per un ragazzino in un momento storico in cui non c'era speranza di un lavoro, di una carriera davanti, era confortante poter provare quel potere, il potere del gruppo del quale poi ha fatto parte e che era molto eterogeneo all'inizio, proprio come mostrato nel film. C'erano all'interno New Romantics, Skinhead, Herbert, Rude Boys, accomunati da una personalità forte, dalla passione per la musica reggae e dallo ska, e per un certo modo di vestire, non dalla connotazione violenta che poi venne dopo. A fare da parallelo a questa rottura dell'armonia nella vita di Meadows ci fu un episodio molto violento che lo fece allontanare da questo gruppo di skinhead. Uno skinhead dall'altra parte della banchina che stava picchiando qualcuno quasi per farmi divertire fu la cosa più terrificante che io abbia mai visto. Quindi Meadows lasciò questo gruppo e il suo progetto era quello di diventare un grande criminale, ed effettivamente compì molti reati minori, per la maggior parte furti, ma insomma a 20 anni sì, ma a 20 anni si e poi a 20 anni si iniziò si trasferì a Nottingham e cominciò a dedicarsi al cinema. E come dicevo prima, c'è anche molta politica in This is England, vengono raccontate la situazione economica dell'Inghilterra, la guerra, la controversa guerra delle Falkland, l'ascesa appunto di gruppi violenti mossi dal razzismo, e nel 2007, anno di uscita, nelle sale del film questi temi risuonarono come una critica alla contemporaneità e anche oggi sono abbastanza attuali, ecco. Anche perché in quel periodo vedeva il partito di estrema destra vincere le elezioni, le truppe britanniche rimanere in Medio Oriente. E poi insomma c'è stato anche quest'altro film sempre molto biografico e bello di Meadows, che è Dead Man's Shoes, 5 giorni di vendetta del 2004, un film durissimo, terrificante, che a sua volta affonda le radici nell'esperienza per il personale del regista, in cui racconta un grande disagio sociale, in questo caso è la droga che insomma porta a questo disagio, ed è anche questo un bellissimo film. Mi piace questo regista perché, poi chiudo questa parentesi su di lui, è un regista in cui ci sono tante cose, cioè c'è una buona regia, una buona cura per i particolari, sia a livello tecnico che a livello di scenografia, di ricostruzione storica, come dicevo, ma poi anche sembra un po' un artigiano, sembra un po' italiano questo Meadows, perché è un artigiano, secondo me cura un po' tutte le parti del film, e in questo caso, ma anche nell'altro film, ha curato tanto bene anche la colonna sonora. Alberti and the Cimarrons con Morning Sun, di cui non trovavi notizie, vero? No, volevo chiamare Attica Blues, a un certo punto mi era presa la disperazione, ho trovato soltanto che i Cimarrons sono stati una band reggae che si è formata nel 1967. Ecco, sappiamo una data di partenza. E hanno fatto da supporter a molti artisti, tra cui Jimmy Cliff. Tutto qua, andiamo tutto qua. Avanti? Direi che sì. Me. Toots and the Maytals con Drop Pressure Drop, calo di pressione che stai avendo tu. Ma pensa, io questa canzone l'ho conosciuta nella versione dei Clash. Sì, hanno fatto un sacco di cover. È stata registrata nel 1969 dai Marshalls, Toots and the Marshalls, e pubblicata nel 70. E la prima cover del brano è stata realizzata da Robert Palmer per il suo secondo album, chiamata appunto Pressure Drop, e pubblicato nel 1975. Poi è stata interpretata dai Clash, gli Specials, Keith Richards anche nel 2003 ha fatto una cover di Pressure Drops insieme agli stessi Toots and the Specials, e poi Keija ha pubblicato una cover nel suo EP di Pressure Drop. Bridges of silence, built over saints, a creature of dry land, a gale around me, the son of a searcher, who's never seen the sea. How far can you crawl? God knows I love you. You are an original. I came without reason, so bitter, so free. You were born by the river, but you never sang the same. Tombstone, I feel like a vision between us, a sun in the sky. I weighed up your madness in scales of degree. You lived your whole life, but you never saw the sea. You never saw the sea. Oh, Gavin Clark, l'uomo dell'entroterra, perché la canzone è Never Seen the Sea, mai visto il mare. Oggi si è presa così, questa seconda parte traduciamo tutti. Ed è una delle tue infatuazioni musicali. Oh, quanto mi è piaciuto Gavin, mi è piaciuto proprio. Ma lui, di lui ho scoperto pochissimo, ecco. So soltanto che è nato nel 1969, è inglese, è stato membro di vari gruppi, Sun House, i Clay Hill, di cui c'è un altro brano fra poco, e degli Uncle, di cui abbiamo parlato un po' qualche giorno fa, mi pare, vero Fede? Ti ricordi gli Uncle? Uncle, sì, il collettivo. Sì. Vabbè, no, niente, di lui non so niente, soltanto che ha questa voce bellissima, proprio da cantautore classico, proprio bello. Non so se... Metto il mio ventaglio così in microfono. Sì. Questa va bene, sì. Sì. of light would make a good man turn back. Con Please Please Please Let Me Get What I Want, ma non c'è paragone, devo dire, con la versione Morrissey. Ti piace di più quella degli Smith? Dai. A me però Gary, guarda, mi ha proprio colpito al Gary, cuore. Gary mi hai colpito al sì, cuore. Sì, Gary mi hai colpito, ma è morto. È morto. Sì, All'epoca mi colpì al cuore. No, è Clay Hill, perché è sempre Gary Clark. Che abbiamo ascoltato poco fa, ma io andrei a palla, perché insomma abbiamo un sacco di altri pezzi da mettere, chissà se ci riusciamo. Vabbè. certo punto la sfumiamo, che è tipo questo momento. Sì, Toots and the Maytals, perché abbiamo sentito 3 minuti, ma dura altrettanto. 5 minuti e 45. Beh, vabbè, questa canzone, giusto due cose velocissime, cerco di essere veloce. Ci parliamo sopra, perché guarda. c'è una bella storia. Allora, è stata suonata, incisa per la prima volta dai Kingsmen. E i quali avevano rubato la strofetta da un altro gruppo, però insomma avevano pensato che nessuno se ne sarebbe accorto, e così è andata, infatti di fatto è andata così. Poi che cosa è successo? Che i Kingsmen la incisero nel maggio del 63 e si racconta che una volta, ed ebbe un grandissimo successo, si racconta che Eli, che la cantava, avesse una fortissima irritazione alla laringe provocata dall'incisione di una session di live interminabile, e con il gruppo aveva cantato in un club per 90 minuti di seguito la stessa canzone, sempre lui. E per tutte queste ragioni le parole erano diventate così incomprensibili e garbugliate che aprirono tutta una serie di immaginari senza ritorno. Cosa diceva il testo? Che fosse stato un turpiloquio? Erano frasi oscene? Cosa stava cantando realmente Eli? Tutto questo perché cosa provocò? Che Eli non stava cantando la canzone, la storia del marinaio Jay McCann, tanto triste, che interloquisce amichevolmente con un barman, lui, e a cui racconta che la sua ragazza è rimasta in Giamaica e che lui vorrebbe tornare sull'isola, e poi si congeda, no? E dice I really got to go. Ma secondo gli agenti federali, che insomma sempre brillano per la loro acutezza e intelligenza, quei 2 minuti e 13 secondi di registrazione erano semplicemente osceni e pornografici. Quindi fecero tutta una serie, il Federal Bureau of Investigation, l'FBI, per 30 mesi misero sotto inchiesta il pezzo e ascoltarono il disco, lo riascoltarono, fu suonato a diverse velocità, sentito al contrario, ma a un certo punto il verdetto dell'FBI fu perentorio: a qualsiasi velocità il brano risulta indecifrabile, caso archiviato. Beh, insomma, questo per raccontare l'intelligenza delle forze dell'ordine, che non sono soltanto intelligentissime qua da noi, ma anche insomma anche oltre Manica, brillano proprio per la loro simpatia. Senti, ecco. Ma chissà se esiste la versione registrata del concerto, 1 ora e mezza di lui. No, vabbè. Io credo che sia una cosa ipnotica. Beh, è stupendo, vabbè. Quantomeno ipnotica. Di questo pezzo ne sono state fatte 1000 versioni. I Cult, Fat Boys, i Falcons, Flaming Groovies, MC5, i Pretenders, Otis Redding, Fred Zacca, Patti Smith, i Sonics, e Iggy Pop ne ha inciso una versione con un testo politico e satirico nell'album del 93 American Sales. Versione usata poi da Michael Moore durante i titoli di testa di Capitalism a Love Story. Yeah. let the dark in on the street. Percy Sledge, Dark End of the Street. Percy Sledge, che io amo invece per la sua When a Man Loves a Woman. Vabbè, certo, famosissima, poi rifatta, ripeto, dai Procolarum, no? Sì, comunque. Comunque Frank Zacca non era Frank Zacca ma Frank Zappa, e Oltre Manica non era Oltre Manica ma Oltre Mare, ecco, mi volevo, visto che abbiamo il professorino qui, ma abbiamo qua i professori qua alla radio, ma senti Attica Blues ancora non è arrivata, volevi sentire Eileen, vero? Sì perché super è proprio guarda, è un brano strano, a me non è che mi è piaciuto tanto, però è molto inglese, ci molto sta tutto inglese. Questo film e dai. E poi però ci dobbiamo mettere anche poi il mio amato Ludovico. Ok. Dexys Midnight Runners, il bello è che tu mi hai detto a me non piace, io dopo alle prime battute mi sono venuti i capelli dritti, ma tu sì, ma è molto English, detto, poi diventa è carina. Molto English pop. Comunque siamo ai saluti perché è arrivata Attica Blues, sì. Ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16 e ci salutiamo con il tuo amato Ludovico Einaudi. Sì, che speriamo di avere in trasmissione prossimamente. A giovedì prossimo. Un saluto a tutti e tutte, in particolare modo a chi è privato o privata della propria libertà. Ricordatevi di sostenere questa radio libera dal 1977, lo potete fare attraverso il sito web della radio www.ondarossa.info.